Cari amici di Radio Alma e della Tela Sonora, benvenuti ad una nuova puntata. Da questo appuntamento avremo un sottotitolo, il nome della nostra trasmissione. Benvenuti a parte di Massimo De Martino, la Tela Sonora, Cuore di Poesia. Perché cerchiamo proprio con questo nostro programma di entrare nel cuore della poesia. La poesia è un mezzo di comunicazione importante perché nasce da quello che è il nostro primo mezzo di comunicazione, la parola. Proprio alle parole sarà dedicata questa puntata. Puntata che ci vedrà trascorrere del tempo in compagnia di Patti Smith. Patti Smith, poetessa, definita sacerdotessa del rock, è una figura importantissima nel mondo del rock perché per lei è sempre venuta prima la poesia e poi il rock. Abbiamo nelle scorse puntate parlato di Jim Morrison, il quale ha approcciato al rock per poi distaccarsene cercando di restare il poeta James Douglas Morrison. In questo caso invece parliamo di Patti Smith che non ha mai perso la sua poesia e lo ha fatto proprio attraverso la sua musica e attraverso il rock. Siamo pronti per cominciare. Come sempre ci ascoltiamo prima una canzone che ci introduce in qualche modo a quello che può essere l'argomento di questa nostra puntata e tra poco ascolterete, vi leggerò un bellissimo racconto breve di José Saramago, Nobel per la letteratura, appunto, insomma un personaggio che è veramente uno straordinario inventore di storie, le cronache, così sono chiamate quelle che lui utilizza per raccontare la faccia volutamente nascosta delle cose. Bene, di José Saramago vi leggerò proprio una piccola cronaca dedicata alle parole, si chiama proprio Le parole. Tra poco comincia questa nuova puntata della Tela Sonora Cuore di Poesia, insieme con Radio Alma, insieme con Massimo De Martino. Grazie per aver scelto noi anche in questa nostra puntata. La musica e tra pochissimo José Saramago con Le parole. Consciousness lies in fertile mind, the dormant seed blooming into charity. Conscience breathes a sigh of relief. Confessions of sleep. By love to serve, we celebrate all merit in life. All confessions of sleep, the awakening sleep, as we extend. According to parole sono buone, le parole sono cattive, le parole offendono, le parole chiedono scusa, le parole bruciano, le parole accarezzano, le parole sono date, scambiate, offerte, vendute o inventate, le parole sono assenti. Alcune parole ci succhiano, non ci mollano, sono come zecche, si annidano nei libri, nei giornali, negli slogan pubblicitari, nelle didascalie dei film, nelle carte e nei cartelloni. Le parole consigliano, suggeriscono, insinuano, ordinano, impongono, segregano, eliminano. Sono melliflue o aspre. Il mondo gira sulle parole, lubrificate con l'olio della pazienza. I cervelli sono pieni di parole che vivono in santa pace con le loro contrarie e nemiche. Per questo le persone fanno il contrario di quel che pensano, credendo di pensare quel che fanno. Ci sono molte parole e ci sono i discorsi, che sono parole accostate le une alle altre, in equilibrio instabile grazie a una sintassi precaria, fino alla conclusione del dissi o ho detto. Con i discorsi si commemora, si inaugura, si aprono e chiudono riunioni, si lanciano cortine fumogene o si dispongono tende di velluto. Sono brindisi, orazioni, conferenze, dissertazioni. Attraverso i discorsi si trasmettono lodi, ringraziamenti, programmi e fantasie. E poi le parole dei discorsi appaiono allineate su dei fogli, dipinte con inchiostro tipografico, e per questa via entrano nell'immortalità del verbo. Accanto a Socrate, il presidente dell'assemblea, affigge il discorso che ha appena aperto il rubinetto della fontana. E le parole scorrono, fluide, come il prezioso liquido. Scorrono interminabili. Allagano il pavimento, salgono alle ginocchia, arrivano alla vita, alle spalle, al collo. È il diluvio universale, un coro stonato che sgorga da milioni di bocche. La terra prosegue il suo cammino a volte in un clamore di pazzi che gridano, che urlano, a volte anche in un mormorio docile, sereno e conciliatore. C'è di tutto nel coro, tenori e tenori leggeri, bassi, soprani, dal do di petto facile, baritoni trasbordanti, mezzo contralti. Negli intervalli si ode il suggeritore e tutto ciò stordisce le stelle e perturba le comunicazioni come le tempeste solari, perché le parole hanno cessato di comunicare. Ogni parola è detta perché non se ne oda un'altra. La parola, anche quando non afferma, si afferma. La parola non risponde né domanda, accumula. La parola è l'erba fresca e verde che copre la superficie dello stagno. La parola è polvere negli occhi e occhi bucati. La parola non mostra, la parola dissimula. Per questo urge mondare le parole, perché la semina si muti in raccolto, perché le parole siano strumento di morte o di salvezza, perché la parola valga solo ciò che vale il silenzio dell'atto. C'è anche il silenzio. Il silenzio, per definizione, è ciò che non si ode. Il silenzio ascolta, esamina, osserva, pesa e analizza. Il silenzio è fecondo. Il silenzio è terra nera e fertile, l'humus dell'essere, la tacita melodia sotto la luce solare. Cadono su di esso le parole, tutte le parole, quelle buone e quelle cattive, il grano e l'olio, ma solo il grano dà il pane. Questo era José Saramago, da Di questo mondo e degli altri, una bellissima cronaca dedicata appunto alle parole, che si chiama Le parole. Le parole saranno importanti in questa nostra puntata della Tela Sonora Cuore di Poesia. Il libro è edito da Einaudi, se volete acquistarlo, ed è un libro che io vi consiglio, perché tutte le cronache sono molto corte, a volte anche di una pagina e mezzo al massimo, e potrete utilizzarlo come prima lettura del mattino, ultima della sera. Ve lo consiglio perché ci sono veramente tanti spunti di riflessione. Era José Saramago con Le parole, qui alla Tela Sonora Cuore di Poesia. Questa è Radio Alma. Questa nostra puntata è dedicata a Patti Smith, che con le parole ha sempre giocato bene, si è sempre giocata le sue carte e ci ha sempre dato non soltanto i famosi spunti di riflessione da quale dovrebbero nascere le nostre riflessioni e il nostro pensiero, ma è riuscita anche a darci delle indicazioni importanti. Di lei non parleremo solo in questa puntata, perché incide per fortuna ancora dischi e per fortuna ancora pubblica dei libri di poesie. Dal mondo del rock, dove si sono persi appunto personaggi importanti come Jimi Hendrix, come Jim Morrison, come Janis Joplin, Patti Smith si è salvata la vita proprio grazie al rock e grazie alla poesia. Sentite, li leggo direttamente alle sue parole, che cosa dice in un'intervista proprio delle parole e dell'arte Patti Smith. Eccola qui. Quello che ho sempre tentato di fare è stato di cercare, attraverso qualsiasi forma d'arte, qualcosa che potesse essere uno strumento di comunicazione universale. Quando lavori, non lo fai solamente per gli intellettuali o per le classi elevate. Devi fare in modo che chiunque possa sentire quello che tu volevi comunicare. Quando scrivo poesie, così come avrei potuto disegnare o dipingere, mi sento come se stessi usando degli strumenti di comunicazione ormai estinti, vecchi. I grandi dipinti vanno nei musei. Io mi sentivo americana, uscita fuori dagli anni 50, dall'espressionismo astratto, dal jazz e infine dal rock and roll, da gente che tentava di comunicare profondamente e velocemente, e provenendo da quel tipo di sensibilità nulla mi sembrava sufficiente. Pensavo la parola e scrivevo poesie, ho pubblicato dei libri. Così potevo comunicare con più persone, ma neanche quello era sufficiente, perché anche se mentre scrivevo mi sentivo molto vicina alla lingua, il suono era lontano dalla parola, il suono era dietro di lei. La parola è difficile, perché noi siamo stati separati dalle parole, e come posso comunicare la mia poesia se vado in un piccolo villaggio in Finlandia e nessuno conosce la mia lingua? E come posso comunicare quando posso usare solo le parole? Sono cresciuta sulla Bibbia e ho sempre pensato che siamo stati divisi dalle parole tanti e tanti anni fa. E così la migliore cosa che vedevo per comunicare era il suono. Così in Seventh Heaven ho iniziato a suonare. Una musica molto semplice, perché stavo cercando di mostrarmi, di comunicare con la gente. E quello stesso tipo di musicalità lo si può trovare in Orsis. Per questo ho messo su una band di rock and roll. Perché ho capito che non volevo stare nelle biblioteche, separata dalla gente, ma che volevo comunicare con loro, e il rock and roll mi dava questa possibilità. E infatti, ora non ho sacrificato nulla. Non ho sacrificato la ricchezza della mia lingua, non ho sacrificato nulla. Sto cercando di esplorare tutte le possibilità di comunicazione. Se vengo in Italia e non so la lingua, posso danzare, ballare. Mi immagino come Salomè. Posso comunicare con la gente attraverso il suono e la musica, non solamente attraverso le parole. So che per me le parole sono molto importanti, però so che sono solo una parte. Voglio sfondare la barriera della lingua, ed è questo che tento di fare quando suono la chitarra, quando mi agito come un animale. Cerco di estendere i confini della lingua. Hi. Hi. I was running after you for a long time. I was watching you for... Actually, I've watched you for a long time. I like to watch you when you're walking back and forth on the beach. And the way your cloth looks, I like to see the edges, the bottom of it get all wet when you're walking near the water there. It's real nice to talk to you. Exactly like it's not that you were just waving to me, but that we were waving to each other. Really, it was really wonderful. I really felt happy. It really made me happy. And just wanted to thank you because clumsy. Yeah. No, it's just a band-aid. No, it's okay. Oh no, I'm always dumb. Something's always happening to me. Yeah. Well, I'll be seeing you. Bye. Lo so che fare un libro, un disco oppure una scultura sono tutte cose simili perché smettono di appartenere alla gente. Non è come fare l'amore. Quando sono in concerto, sono capace di creare con la gente, di costruire con loro un rapporto reciproco. Non vado lì e faccio le solite 10 canzoni, non importa dove sono. Cerco sempre di fare cose nuove, di improvvisare nuovi suoni. È vero, i dischi, i libri sono cose fisse, a senso unico, ma quando prendo in mano un libro, io mi sento nuova, mi dà nuove idee, mi ispira. Una delle ragioni per cui faccio queste cose, scrivere libri, incidere dischi, non è soltanto per me. Perché mi sento un genio o cose di questo tipo. Per me le cose che faccio devono essere spunti per altra gente. Vorrei che la gente sentisse uno dei miei dischi e dicesse «grande» e mettesse su una band di rock and roll, oppure leggesse uno dei miei libri e dicesse «stupendo», buttasse via il mio libro e iniziasse a scrivere poesie per conto suo. Vorrei che la gente avesse la sensazione che ce la può fare, che altre cose possono essere prodotte. Non credo che queste mie cose siano capolavori. Ero ancora molto giovane quando li ho scritti, ma penso che siano buoni per incitare altra gente. Mi sento molto libera quando li ho scritti. Ero appena arrivata a New York. Di solito il mondo viene in questa città. Io sono venuta qui per ottenere la forza, il potere, il denaro, qualsiasi cosa che mi permettesse di andare a vedere il mondo. Non me ne è mai fregato niente di New York. Da dove vengo, la gente non vive. L'America è come qualsiasi altro paese. Nasci in un posto, ci cresci, sposi la ragazza della porta accanto, non vai mai da nessuna parte, non vedi mai niente. Magari una volta te ne vai a Roma a vedere le chiese e poi te ne ritorni a casa per il resto della tua vita. Io volevo di più di questo. Dicevo alla gente, voglio andare a vedere Simone Martini, voglio andare a Parigi, dormire nello stesso letto di Rimbaud. E la gente rideva di me. Voglio vedere qualsiasi cosa al mondo. Non mi sento una ragazza del New Jersey. Mi sento Michelangelo, Leonardo da Vinci, Anna Magnani. Io sono tutte queste cose. In America i mass media rendono tutto uguale, tutto oggetto di consumo. Tutti possono vedere la pietà di Michelangelo come l'assassino del presidente Kennedy. I giornali rendono la morte di Elvis Presley importante come quella di Kennedy. Così la gente non sa più distinguere, tutte le cose stanno diventando uguali. Non posso pretendere che per me le cose siano andate diversamente. Nella mia vita, Spillane e Rimbaud hanno avuto la stessa forte influenza. Talvolta mi sento come un guardiano della cultura. Ho 30 anni e per i rock and roll sono tanti. Ci sono dei ragazzini di 14 anni che non darebbero una lira per Rimbaud, ma non darebbero una lira neanche per i Rolling Stones. Io sono ancora fortunata che mi conoscono. Ci sono migliaia di gruppi ora e il mio ormai appartiene alla storia. Per un verso sono contenta che loro non si sentono schiacciati dal passato, ma in un certo senso mi sento responsabile per tutti questi ragazzini che sono il punk rock, che non possono fare altro che voler distruggere tutto, che non hanno nessuna fiducia nel futuro. Mi sento responsabile per tutto questo spreco di energie che non porta da nessuna parte. There's a town in North Ontario with dream comfort. My mind still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon. Flying across the sky, throwing shadows on our eyes, leave us helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless, helpless, helpless. So, che questi sono tempi molto duri per i giovani. La mia generazione aveva qualcosa in cui credere, sapeva cosa fare di se stessi. Ora i giovani non hanno nulla in cui credere, cercano di distruggere solamente. Riesco a capire questi sentimenti perché provo anch'io la stessa rabbia, la stessa frustrazione, ma allo stesso tempo non credo che bisogna distruggere tutto il passato per costruire il futuro. Bisogna imparare ad usarlo. Ci sono tante regole, tante limitazioni, che è difficile per noi andare al di là di ogni restrizione sociale, ma penso che questo sia un tempo buono per vivere. C'è la possibilità dell'anarchia dietro ogni cosa. La gente è arrabbiata, ha paura, è sottoposta ad ogni genere di pressione, ma io credo, spero, che quello che potrà dare speranza, unità, sia il rock and roll, e non per il ta-ta-ta. Quando parlo di rock and roll intendo tante altre cose. Il jazz è stato in un certo senso rock and roll. Rock and roll è qualsiasi cosa che vada a colpire le strutture sociali, qualcosa di positivo nel distruggere. Rock and roll certi libri, rock and roll qualsiasi cosa che venga da un'esigenza profonda, che voglia conquistare coscienza, saper costruire, comunicare, e per me è uguale. L'unica cosa che l'America può offrire è il rock and roll, e il rock and roll sta diventando un linguaggio universale. Quella che avete sentito era la voce di Patti Smith, un'intervista raccolta al Gotham Bookstore di New York. Pensate, era l'agosto 1977, è stata intervistata dalla giornalista italiana Anna Abate.